Mia madre piange ma non me ne accorgo. Ehi, ehi, i sacrifici sì che li ricordo, no non me lo scordo. Ehi, ci metto un'altra pietra sopra, fotte di sti soldi, brucio un'altra banconota. Ehi, raga sotto con la coca, manchi già da troppo e non va bene questa cosa. Ehi, noi da grandi si vogliamo sopravvivere, non mi fido di ste quattro vipere. Ehi, io mi spingo sempre al limite, vivo questa vita, aspetto chi mi viene a uccidere. Yeah. Ma se passi manco ci guardiamo, non lo sanno, solo noi sappiamo. Questa chiama ma non la richiamo, spari addosso, mi metto al riparo. Le mani in faccia pure questa notte, ragazzi in strada con le teste rotte. Sono un po' fatto, faccio foto mosse, fumo 3 grammi e non faccio la tosse. Ripenso a prima, mi guardo ora, è già mattina. Ripenso a prima, mi guardo ora, da quando stavo fuori scuola ne ho fatta di strada. Qua c'è un inferno, non una passeggiata, yeah, ma non ci sei con me. Ripenso a prima, mi guardo ora, da quando stavo nel campetto qualcosa è cambiato. Tutte le notti che io ci ho sperato, yeah, ma che ne sei te. Questa città che mi sta stretta come i miei jeans, baby tu stai meglio senza leggings, ehi. In sto gioco prendo spazio, se cadi un fratello sono là che lo rialzo. Prendo coraggio e vado, mi alzo quando cado, anche se non parlo tu capisci forte e chiaro, ehi. Altro giro senza ghiaccio, altro tiro dopo salgo, spero oggi ce la faccio, ehi. Nessuno piange per me, ho preso calci e dato pugno, ho perso tempo con te, perché le mani di sti infami che hanno stretto le mie, ma in testa già c'avevi piani, avevo tutte le vie. E allora cazzo ora guardami, yeah, sopra un filo con i trampoli, yeah, questi aspettano che cado giù, ma se mi alzo non ti rialzi più. Ho spostato chi c'era davanti, con tutti gli affanni, ma ovunque paganti, alziamo gli incassi, le macchine grosse, come quelli grandi, da dentro la giungla, ne esco senza graffi. Ripenso a prima, mi guardo ora, è già mattina. Ripenso a prima, mi guardo ora, da quando stavo fuori scuola ne ho fatta di strada. Qua c'è un inferno, non una passeggiata, yeah, ma non ci sei con me. Ripenso a prima, mi guardo ora, da quando stavo nel campetto qualcosa è cambiato. Tutte le notti che io ci ho sperato, yeah, ma che ne sei te.